Sono un uomo solitario, navigo con vento contrario. Tu pesa la mente, chi va in cerca del niente. Sono un uomo solitario, navigo lento e vado lontano. In cerca di che? Forse di me, perché? Come baby, be my boy. Come on baby, hold my heart. Come baby, be my boy. Come on baby, hold my heart. Navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. Navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. Navigheremo lontano in cerca del velo. E navigheremo lontano. Il mio sguardo va in profondità, osservando l'infinito come se non fossi mai partito. Assorto nel silenzio per diluire il tormento, emozioni facili e irraggiungibili. Come baby, be my boy. Come on baby, hold my heart. Come baby, be my boy. Come on baby, hold my heart. Navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. E navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. E navigheremo lontano in cerca del velo. E navigheremo lontano. In questa notte così silenziosa, la tua presenza sarà preziosa. In questa notte così silenziosa, la tua presenza sarà preziosa. Navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. E navigheremo lontano in cerca del velo. Oh, oh. E navigheremo lontano del velo. Oh, oh. E navigheremo lontano. Oh, oh. In cerca del velo.